Sulla strada di Ginevra ho venduto una canzone ad un uomo di cartone che la dedicò al suo amore. 20 franchi per cantare nei bistrò ad elemosinare una città finalmente seria, ricca di spirito e di miseria. Una miseria non d'argento, ma di poesia e di tormento, ricca di falsi scambi umani, ricca di numeri sociali, ricca di gente con una nuova divisa, ricca di una povertà infinita, ricca di gente con una nuova divisa, ricca di una povertà infinita. La strada di Ginevra, vermi striscianti da topaia, la neve gelida e dilatta, l'orchestra muta amplificata, un albergo colmo di lucertole e un uomo finto che ti ride, i calzoni sporchi di caffè e le luci accese per Natale, solo all'alba tra il torrente e la nuova luce del giorno, c'è chi corre con la fretta, ma come acerbo il suo ritorno, da una fune sfilacciata, sta scappando senza rumore, fugge da un posto che ormai odia, ma crede ancora nella sua storia. Fugge da un posto che ormai odia, ma crede ancora nella sua storia.